Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, siamo pronti per ascoltare i temi del nostro sommario. In regia la parte tecnica Peter Bescapé, in redazione Laura Vanossi. Come e perché lo sport fa crescere i nostri figli? Smog, nemico della pelle. Il dolore è donna, lo rivela uno studio. Avete figli di età compresa tra i 16 e i 18 anni? Bene, oggi questa puntata è dedicata a voi perché ci occupiamo di loro. Se sono sedentari vi daremo alcuni consigli per aiutarvi a convincerli a darsi una mossa, scegliendo naturalmente l'attività più adatta a loro. Se sono invece già degli sportivi vi forniremo tutta una serie di indicazioni per capire se lo sport che stanno praticando è indicato per loro. Una puntata quindi in cui parleremo sicuramente dei benefici ma anche dei potenziali rischi dell'attività fisica per i nostri ragazzi. Proveremo a individuare dei segnali sospetti, magari ci possono essere dei piccoli dolori, delle tensioni, parleremo di stress e naturalmente anche di traumi. Il tutto per cercare di fornirvi qualche soluzione. In studio con me oggi ho due esperti, il dottor Franco Confalonieri, ormai ospite fisso del venerdì, medico sportivo e responsabile del centro DDS di Settimo Milanese. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati. Ed è tornato a trovarci il dottor Antonio Memeo, responsabile della struttura dipartimentale di ortopedia e traumatologia infantile del Gaetano Pini di Milano. Buongiorno a tutti. Buongiorno, bentornato. Grazie. Allora abbiamo un medico sportivo e un ortopedico. Io vorrei chiedere a voi di definire un po' il vostro campo di intervento, in modo che anche i nostri ascoltatori da casa riescano bene a capire di che cosa possono approfittare, in che modo possono approfittare di voi. Già che ci siete, ci facciamo avanti. Intanto ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24. Dottor Confalonieri, vuole iniziare lei? Sì, il medico sportivo si occupa un pochino più degli aspetti legati alla fisiologia della persona che fa sport, quindi alla funzionalità dell'apparato cardiovascolare, dell'apparato respiratorio, alla produzione di energia, all'affaticamento e all'allenamento. E oggi in particolare vorremmo parlare degli aspetti positivi dell'attività sportiva, dei benefici dell'attività sportiva, un mio cavallo di battaglia se vogliamo, differenziandoli magari per gruppi di età, bambini fra i 6 e i 10 anni, bambini fra i 10 e i 14, fino agli adolescenti, cioè l'età fra i 14 e i 18 anni. E se vuoi accenno già a grandi linee, così introduciamo un po' di temi, a quali sono i quattro benefici fondamentali secondo me. Innanzitutto il controllo del peso corporeo, sì, di cui si parla moltissimo. In secondo luogo il miglioramento dell'efficienza cardiovascolare e respiratoria. In terzo luogo uno sviluppo muscolare più equilibrato ed armonico, quindi una riduzione degli squilibri muscolari. Sì. E infine, quello a cui forse ottengo di più, la capacità di sviluppare in modo adeguato la propria intelligenza motoria, e cioè di gestire in modo adeguato la propria corporeità, che ci porterà benefici per tutta la vita. Dottor Memeo, io vorrei sapere anche il suo punto di vista. Essendo un ortopedico, ci potrebbe ad esempio aiutare a capire come e perché l'attività fisica incide sullo sviluppo articolare e scheletrico dei nostri ragazzi? Beh, in diversi modi può incidere, sicuramente può incidere per migliorare la struttura corporea, sì, però contemporaneamente bisogna stare attenti che non diventi un eccesso, perché quando diventa un eccesso può anche provocare dei danni. Di solito questi poi vengono visti da noi, e come giustamente ha detto Confalonieri, in realtà poi ci sono dei danni che possono essere sia danni traumatici, sì, e quindi sovraccarichi possono provocare delle fratture, dei traumi, delle distorsioni, soprattutto negli sport di contatto. Invece anche sovraccarichi osteomuscolari, tendine e articolari, quando l'attività diventi esagerata o addirittura esasperata. Allora, dottor Confalonieri, lei ci aiuterà un po' a scegliere, con l'aiuto del dottor Memeo, a scegliere, individuare l'attività fisica più congeniale ai nostri ragazzi, ma soprattutto attenzione ad esempio a quei segnali di stress e di affaticamento, magari dopo l'attività fisica, che i nostri figli ci raccontano e che a cui noi prestiamo troppo, poca o poco troppa attenzione. 800 24 00 24, ormai d'abitudine chiedo sempre al dottor Confalonieri e quindi anche a lei dottor Memeo di fare delle domande ai nostri ascoltatori da casa, in modo da poter attivare le loro richieste, le loro domande e gli interventi. Dottor Confalonieri, dia il buon esempio. Sì, facendo domande proprio di base, Innanzitutto vorremmo sapere se avete scelto voi l'attività che fanno i vostri figli, o se l'avete scelta insieme a loro o l'avete lasciata scegliere a loro. E in secondo luogo, sulla base di quali considerazioni avete scelto questa attività. Quindi se considerazioni esclusivamente di comodità e di organizzazione della giornata, o magari considerazioni anche legate alle caratteristiche fisiche, mentali del vostro bambino. Dottor Memeo, invece lei cosa amerebbe chiedere? Che cosa, a quali domande vorrebbe rispondere? Io faccio una domanda, una sicuramente un po' provocatoria. Sì. Mio figlio ha scelto questo sport perché per lui è adatto, o solo perché al papà piaceva fare questo sport, o perché il papà magari era un campione in quello sport? Certo. Che è la prima domanda. E l'altra domanda invece diventa questa: quali sono dei segnali fisici, dolore, affaticamento, per i quali il bambino può dire forse ho esagerato? Sì. Quindi oggi quando capire oggi non ho voglia di giocare, capire se oggi non ho voglia di giocare perché è un problema psicologico, sì, oggi non ho voglia di giocare perché effettivamente c'è un sovraccarico, un affaticamento fisico, o c'è stato un trauma che il bambino magari ha sottovalutato. Certo. Quindi noi vi aiuteremo a scegliere se ancora non avete scelto lo sport per il vostro ragazzo. Naturalmente vi aiuteremo con l'aiuto dei nostri esperti a capire se lo sport che stanno praticando nei tempi e nei modi giusti, e poi soprattutto con benefici. 824 0024, questo è il nostro numero verde a vostra disposizione, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. E voltiamo pagina, parliamo della nostra pelle un po' grigia e spenta. Questa d'altronde è una stagione un po' difficile, ma a tutto c'è rimedio. Soprattutto abbiamo in linea con noi la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa a Milano, pronta a prendersi cura di noi. Dottoressa Serri, bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Dottoressa, la nostra pelle di questi tempi, oggi poi insomma siamo un po' tutti Halloween, è grigia come le nostre città. D'altronde è aggredita ogni giorno da vento, un po' di freddo e anche da tutti gli agenti inquinanti, insomma si difende come può, e noi la vediamo non in splendida forma. Beh, certamente chi vive in città, e soprattutto in città come Milano è una città fossata tra le Alpi e gli Appennini, nella pianura padana, senza mare, è ancora più inquinata. Sì. Chi vive in città di mare è un po' più fortunato, quindi tutta l'anidride solforosa, le polveri sottili, l'eccesso di monossido di carbonio che impedisce una buona ossigenazione del sangue, poi portano anche a manifestare questa sofferenza sulla pelle, ma è tutto l'organismo che ne patisce. Per certo, la pelle è più esposta, sì, per motivi di inquinamento e anche per motivi di cattiva irrorazione sanguigna a partire dall'interno. Senta, viene istintivo dire, se lo smog, se l'inquinamento mi sporca la pelle, cerco di portarlo via, e quindi la detersione penso che abbia un ruolo fondamentale. Ma assolutamente sì, è molto importante. Io sento di molte persone, soprattutto ragazzi, ma anche molte donne, che alla sera magari non si lavano, hanno sonno, non pensano quanto sia importante lavarsi. Ora, per me è molto importante, anche se non si è truccati, in ogni caso lavarsi bene adeguatamente. Non per niente ho fondato un'associazione di dermatologia ecologica che si chiama appunto Skineco, perché proprio tengo anche alla salute ecologica, certo, della pelle. Le particelle inquinanti possono dare veramente fastidio, e quindi vanno eliminate con una buona detersione, che può essere fatta con latte, con sapone liquido, con gel. Dottoressa Serri, bisogna detergersi quindi accuratamente. Qua io in studio ho due suoi colleghi uomini. Noi donne con il trucco alla sera almeno siamo più portate a struccarci. Gli uomini, non so, vi usate il detergente alla sera, dottor Confalonieri? No, io oggi sono in difficoltà perché invece sono un cultore del lavarsi relativamente poco. Abbiamo al massimo una volta al giorno, e quindi sono un po' in crisi nell'ascoltare la dottoressa Serri. Dottor Memeo, lei? Ma una doccia la sera e una la mattina non fanno male, quindi vanno bene. Chissà la pelle, chissà se la loro pelle è inquinata, non voglio parlare. Senta, dottoressa Serri, creme che facciano un po' da barriera. Certamente. Esattamente, è importante usare creme per esempio che non vadano a occludere la pelle, poi rispondo anche al dottor Confalonieri però. Sì. Per esempio creme senza un eccesso di derivati del petrolio, come petrolatum sull'etichetta, paraffinum liquidum, perché quelle vanno a soffocare la pelle, possono dare fastidio. Noi prediligiamo per esempio creme a base di oli vegetali, di grassi vegetali, comunque creme che non vanno a occludere la pelle, non vanno poi. Quindi se tra gli ingredienti ai primi posti leggiamo una parola simile a petrolatum, no, non va bene. È la vasellina. È la vasellina. È la vasellina che va bene per isolare la pelle, ma facendo barriere poi non impedisce alla pelle di comportarsi nel da migliore pelle. Dei modi. Allora, una risposta al dottor Confalonieri. Sì. Dipende da con che cosa ci si lava, e proprio per questo è molto importante studiare gli ingredienti dei detergenti. Certo. Se si dice sono contrario a lavarmi con la massa dei bagnoschiuma, shampoo doccia, schiumogeni aggressivi, d'accordo con lei, ma darsi una lavata fisiologica, ecologica, in maniera assolutamente consona ai tempi in cui viviamo, purtroppo non siamo nelle zoette in mezzo all'oceano con l'aria pulita, quindi è necessario, indispensabile. Dottoressa Serri, la inviterò una prossima volta per capire come gli indumenti che coprono, questa è una stagione in cui la nostra pelle vive per ore e ore coperta, vediamo come gli indumenti, vedremo insieme come gli indumenti la proteggono e se invece in qualche modo possono danneggiarla. Dottoressa Serri, ci sentiamo alla prossima, grazie per essere stata con noi, buona giornata. Pronto soccorso. Quale sport fanno i vostri ragazzi, con che risultati o perché non si muovono? Proviamo a darvi qualche spunto per convincerli a darsi una mossa. Oggi abbiamo a disposizione due esperti, che approfittatene, tanto che sono qua, 824 0024, un medico sportivo e un ortopedico. Intanto approfitta subito Silvia, che ci chiama da Padova. Silvia, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione, che mi ascolto sempre. Grazie Silvia, carina. Mi dica. Allora, senta una cosa, io ho una domanda da fare che è un po' strana, nel senso io ho due figlie grandi, super sportive, perché io sono una super sportiva, e ho il piccolo che ha 11 anni, le altre ne hanno sui 20 anni, che gli ho fatto fare qualsiasi tipo di sport, gli ho rotto le scatole proprio, e alla fine gli piace montare a cavallo, e io divento matta, perché per me montare solo a cavallo non va bene, perché io ho montato a cavallo anche io a 20 anni, e secondo me non va bene montare solo a cavallo. Insomma, a lei non è soddisfatta della scelta di suo... lui fa anche, poveretto, ma vedo proprio che è di una pigrizia estrema, non so se sono i maschi che sono pigri. Non so se sono i maschi, questa potrebbe essere una bella puntata, Silvia. Dottor Confalonieri. Io sono un maschio pigro, sì, però siamo già in due. Adesso mi scrivono anche che si lava poco. Esatto, la mia immagine oggi sta crollando. Vabbè. No, vabbè, abbiamo trovato un punto di contatto però con la dottoressa Serri in funzione della scelta del detergente. Dai, abbiamo fatto un armistizio. No, allora io direi che indubbiamente la scelta del cavallo è una scelta sportiva assolutamente legittima. C'è un impegno importante sul piano muscolare, è anche un impegno importante di tipo metabolico e si impara a gestire correttamente la propria corporeità. Indubbiamente, soprattutto se fatto in giovane età, ci sono dei rischi legati a sovraccarichi specifici del gesto dell'equitazione, che magari può illustrarci meglio il professor De Meo, e che vanno ovviamente compensati in modo adeguato. Dottor Meo, vuole aggiungere? Se dipende, per le ginocchia sicuramente un eccesso di equitazione in età di sviluppo può essere dannoso. Eccesso intendo se uno va a cavallo 4 ore al giorno. Se uno va a cavallo 2 volte alla settimana per un'ora non c'è nessun problema. Collateralmente, se invece uno avesse il ginocchio valgo, il classico ginocchio X, l'equitazione gli fa bene, quindi potrebbe fargli bene. Insegna a stare dritti con la schiena, che questo non è male, infatti, perché la corretta equitazione insegna a tenere la colonna in iperestensione, quindi a stare dritta. E come tutti gli sport, è ovvio, a 11 anni, 2 volte alla settimana, un paio d'ore per volta, non c'è nessun problema, lo può fare tranquillamente. Prima di parlare di eccessi, la telefonata di Silvia mi dà lo spunto per chiedere: ci sono tanti luoghi comuni sugli sport, i benefici, ad esempio si dice che il nuoto sia lo sport ideale per correggere la scoliosi. Dottor Memeo, è vero o falso? È falso, cioè il nuoto è uno sport che va benissimo per tutto, ma non corregge la scoliosi, cioè non è la cura della scoliosi il nuoto. Il nuoto fa bene perché armonizza, perché perché sviluppa tutta la muscolatura, gli arti inferiori, gli arti superiori, ma non è una terapia. Se uno ha la scoliosi deve fare le terapie per la scoliosi. Senta, un'altra domanda è questa: è vero che molti genitori, almeno lo credono, bisogna iniziare a fare sport asimmetrici, mi riferisco al tennis, quando si diventa un pochino più grandicelli e quindi intorno ai 13-14 anni, proprio per evitare poi una simmetria nello sviluppo? È vero o è falso? Anche questo è parzialmente falso, nel senso che il tennis è sì uno sport asimmetrico, è come il tennis, la scherma o altri sport, però anche qua, come ho detto per l'equitazione, nel momento in cui uno gioca a tennis 8 ore al giorno, se uno a 14-15 anni, come ormai d'uso, gioca a tennis a livello semiprofessionistico e quindi gioca anche 4-5 ore al giorno, può diventare asimmetrico. Ma se uno a 10 anni, 11 anni, gioca a tennis le classiche 3 volte alla settimana per un'ora ogni volta, non c'è nessun problema sullo sviluppo. Pallacanestro per diventare alti era un classico, è un po' piccolino, mandalo a giocare a pallacanestro che diventa alto, magari. Mio nipotino è basso e l'hanno mandato a giocare a pallacanestro, per cui così cresce. È cresciuto? No, è sempre basso. Allora andiamo a Vicenza, ci chiama Gianna, buongiorno. Buongiorno. Io ho una bimba di 9 anni e mezzo, pratica pattinaggio artistico da 4 anni, ma da un paio d'anni è nell'agonismo e mi viene chiesto un allenamento dalle 8 alle 10 ore settimanalmente. La bimba finora l'ha praticato serenamente, ma noi genitori abbiamo qualche perplessità, anche perché di fronte a qualche insuccesso nelle semplici gare di categoria a livello provinciale o regionale, e la bimba secondo noi non tira fuori la grinta necessaria per sostenere questo carico di lavoro. Ora quindi ci stiamo interrogando se ciò che ci viene chiesto da una società può essere valido per una bimba di 9 anni e mezzo che pratica anche cavallo come il figlio della signora, come il figlio della signora di prima. Magari prima o poi si incontreranno in una cavalcata. Dottor Compagnonieri, grazie mille per la trasmissione. Sì, allora direi che 2 ore di attività fisica in senso generale tutti i giorni per un bambino di 8-10 anni vanno bene, l'abbiamo detto tante volte. 2 ore già di un'attività specializzata, come può essere soltanto il pattinaggio artistico, rischiano di essere un eccesso. E tutto sommato non sono nemmeno così convinto che siano funzionali ai risultati in prospettiva, nel senso che siamo ancora in una fase in cui gli stimoli di tipo multilaterale, cioè diversificati, migliorano anche le capacità del ragazzo. Quindi 2 ore tutti i giorni, sì, possibilmente alternando discipline diverse, ogni tanto lasciando giocare. Poi c'è l'aspetto psicologico, nel senso che ciascuno di noi ha l'agonismo dentro, però in forme e modi diversi. Quindi va considerato un anche un po' di agonismo c'è sempre. Sì, però non è per tutti l'approccio alla gara, alla competizione o al desiderio di diventare campioni non è lo stesso. Per cui probabilmente per questa ragazza anche il sovraccarico in questa fase è un po' eccessivo sul piano psicologico. Infatti, ad esempio, ci scrive Luigi: mio figlio non vuole fare sport di squadra perché si sente osservato. Ora fa canottaggio, ma non vuole confrontarsi. Cosa devo fare? Dottor Confalonieri, anche farlo giocare, per ora farlo giocare. Andiamo ancora a... no, prima c'è Luca da Vicenza e Lucia da Brindisi. Luca da Vicenza, buongiorno. Luca? Sì, pronto? Buongiorno, Luca. No, da Vicenza, dalla provincia di Siena. Ah, dalla provincia di Siena, l'hanno messa tutti in Veneto. Bene, allora sono contenta. Scendiamo in Toscana così poi raggiungiamo Brindisi. Ci racconti? Ah, io sono un ex rugbista, ho giocato anche a livello agonistico, ormai vabbè, ho smesso da qualche anno, però ovviamente avendo fatto questa esperienza molto importante avrei preferito che mio figlio facesse appunto rugby, poi... Non ho mai visto interesse da parte sua guardando le partite. Senta Luca, sento un po' di rammarico in questa voce. Un pochino sì, però poi alla fine mi sono reso conto che lui doveva fare la scelta giusta per lui. Ha fatto bene. Devo dire anche che comunque è stata anche positiva un'esperienza che abbiamo fatto 2 anni fa, mandandolo a un centro estivo di 15 giorni organizzato dal comune. Quindi Luca, lei si è rassegnato, suo figlio ha scelto? No, dicevo, questa esperienza che ha fatto, praticamente ogni giorno facciamo uno sport diverso. Sì, Luca, dobbiamo quindi... venire alla domanda o al suo contributo? Lui sta giocando a tennis adesso in questo momento, lo vedo molto ben predisposto a questo sport, l'ha fatto in funzione anche della possibilità di provare tanti sport. Quindi il messaggio che ci arriva da Luca è: facciamoli scegliere, nonostante un po' la predilezione, soprattutto se ci sono dei genitori particolarmente sportivi, il genitore dovrebbe fare un passo indietro, perché magari uno non ha il fisico per fare quello sport, dottor Memeo, perché esatto. Conta anche il fisico oltre che la passione. Esatto, ci sono degli sport che prima di una certa età in effetti non sono consigliabili, ad esempio lo sci si può iniziare dai 3 anni, 3 anni e mezzo, nelle scuole di sci in vari paesi d'Europa, in alcuni paesi iniziano a 3 anni, in altri a 4. Il tennis in Francia ad esempio iniziano i corsi propedeutici al tennis ai 4 anni, in Italia li iniziano un pochino dopo ai 5. Sì. Karate, per fare un esempio, lo iniziano anche quello a 5 anni, perché bisogna associare sia le possibilità di sviluppo neuromotorio, quindi di coordinazione motoria del bambino, assieme allo sviluppo fisico, quindi sono due gli aspetti. Anche il calcio, prima dei 5-6 anni, il calcio diventa difficile proprio per un problema di coordinazione. Arrivano molti messaggi di ascoltatori come questo che leggo: Marco, 11 anni, gioca a calcio, di frequenta dolori al tallone, quindi i genitori ci stanno scrivendo per descrivere un po' i segnali di quello di cui si lamentano i loro figli. Eccoci che siamo tornati insieme. 824 0024, questo è il numero a vostra disposizione se avete figli di età compresa tra i 6 e i 18 anni che non fanno alcuna attività sportiva o invece che si stanno appassionando ad un'attività nello specifico e volete sapere se è quella adatta a loro. Ma prima di continuare con le vostre domande e a sentire i nostri esperti che sono in studio con me, il dottor Memeo e il dottor Confalonieri, andiamo a sentire le novità che arrivano dal mondo della medicina e della ricerca. GR Salute. Ferro, né troppo né poco. Uno studio finanziato da Teleton evidenzia il meccanismo che sta alla base delle alterazioni del ferro nell'organismo umano. Professoressa Clara Camaschella dell'Università Vita Salute San Raffaele e dell'Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. Il ferro è un elemento essenziale per l'organismo, ma viene assorbito a livello dell'intestino, ma l'assorbimento deve essere fortemente regolato. Gli studi dell'emocromatosi ereditaria, una patologia genetica che è stata molto studiata negli ultimi anni, hanno portato a capire che l'assorbimento del ferro è regolato da un ormone che si chiama epigidina e che è una sorta di serratura che va a aprire o chiudere la porta del ferro a livello dell'intestino. Quello che si è capito attualmente è come l'epigidina è regolata, cioè si sa che è regolata da un attivatore che fa produrre epigidina e non si capiva qual era l'inibitore. Adesso si sa che c'è una forbice molecolare che taglia l'attivatore, quindi c'è un unico percorso che attiva o disinibisce l'epigidina. Si può pensare che questo possa determinare delle possibilità di nuove strategie terapeutiche in futuro per pazienti con troppo ferro o con troppo poco ferro e soprattutto è molto importante sottolineare come a livello di studi di patologie genetiche si possa arrivare poi a riconoscere dei meccanismi che sono importanti anche in patologie molto più comuni. Il dolore è donna, a rivelarlo un'indagine promossa dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna. Dottoressa Francesca Merzagora, presidente di ONDA. Dunque ieri abbiamo presentato questa indagine sulle donne e il dolore cronico e sono emersi dei dati molto interessanti perché per esempio la grande maggioranza delle donne italiane, arriviamo addirittura all'80%, soffre attualmente o ha sofferto in passato di patologie o disturbi che provocano dolore. Tra l'altro questa diffusione di queste patologie in parte è correlata con l'età. Nella fascia di età tra i 60 e i 75 anni l'esperienza di dolore coinvolge il 70% delle donne. Le patologie più critiche che procurano dolore sono cefalee ed emicrania, artrosi, artrite, osteoporosi e dolore alla schiena. E non sono solo le donne anziane a soffrire di dolore, ma sono anche le giovani. Per esempio il mal di testa è una delle patologie più lamentate. Coniugate e vedove seguono una terapia più spesso di singole divorziate, questo è un dato carino che potrebbe essere commentato a lungo, e anche che le donne istruite si curano meno di quelle meno istruite. Torneremo sul dolore al femminile, intanto se volete saperne di più sulla ricerca andate sul sito www.ondaosservatorio.it. Ma ci aspetta Lucia che ci chiama da Brindisi, 824 0024. Lucia, mi spiace, l'ho fatta attendere, buona giornata. Buongiorno, il mio quesito è questo. Il mio ragazzo ha 9 anni e gli è stato riscontrato un problema di postura, non sì. Ancora scoliosi, solo un problema di postura. ci è stato consigliato il nuoto. Soltanto che quest'anno stiamo ancora temporeggiando, perché lui di nuoto non ne vuole sapere, non niente. E lui mi ha proposto la scuola calcio. La scuola io adesso calcio. Mi trovo davanti a un bivio. Pensare alla sua salute e imporgli, cosa che non ho mai fatto, insomma, questo sport, o accontentarlo. Tra l'altro io non so se la scuola calcio potrebbe andare a correggere in questo momento. Ma noi abbiamo il dottor Memeo proprio che cade a fagiolo, anzi non cade, qua seduto davanti, ma cosa può rispondere a Lucia? Allora è semplice, se ha problemi di postura non ha una patologia e quindi può fare quello che vuole fondamentalmente. Sì. Chiaramente se ha problemi di postura alla colonna vertebrale, il calcio con la colonna vertebrale c'entra un po' poco, però se gioca a calcio per divertirsi 2 ore alla settimana, tre ore alla settimana, lo può fare. Nuoto ovviamente per la colonna fa bene, perché è uno sport in estensione, ma come nuoto può fare anche mini basket piuttosto che anche la pallavolo, per correggere. Quindi libertà di scelta, libertà, mi sembra, ampia libertà. Mi sembra che il consiglio generale, fino a 9-10 anni il bambino deve esplorare, quindi può sperimentare diverse attività sportive, poi nel caso andare a scegliere quella che piace di più, ma anche quella più adatta al suo sviluppo fisico, muscolare e non solo. Avevamo questo perché, allora, dottor Memeo, questi dolori al tallone tormentano molti ragazzi dei nostri ascoltatori, soprattutto di quelli che giocano a calcio. Come avevo letto uno dei tanti messaggi, Marco 11 anni gioca a calcio, di frequente dolori al tallone, cosa fare? Beh, il dolore al tallone viene soprattutto perché a quell'età, 10-11 anni, a livello del calcagno c'è un nucleo di accrescimento dove l'osso cresce, ed è esattamente un nucleo di accrescimento sul quale poi si va a inserire o ad attaccare più volgarmente il tendine di Achille. Sì. Quando uno gioca a calcio sollecita la pianta del piede, sollecita questo nucleo e provoca dei microtraumatismi continui. Sì. E quindi può far ammalare questo nucleo. Quindi quella che volgarmente si chiama tallonite negli adulti è un discorso legato alla spina calcanea. Caneale, sì, come ne abbiamo parlato la settimana scorsa, mentre negli adolescenti è un problema legato al nucleo di accrescimento dell'apofisi posteriore del calcagno che si può diventare sofferente. Qualche volta è associato anche a un piattismo dei piedi e quindi col piattismo dei piedi, infiammazione, campo sintetico dove si gioca a calcio nei bambini adesso, tacchetti delle scarpe magari sbagliati, il tutto provoca questo. Chiaramente devono stare a riposo perché il nucleo deve essere lasciato crescere da solo, si deve formare con calma e quindi si usano dei presidi che sono le solite talloniere in lattice da mettere sotto o anche in qualche caso delle terapie tipo magnetoterapia o d'altro. Vuol dire che chi ha i piedi piatti non diventerà un grande calciatore? Maradona aveva un piede cavo con la scarpa numero 36. Qua bisogna tirare un po' di conseguenze. Ma dottor Confalonieri, questa nostra riflessione mi porta a chiederle: ci sono delle strutture fisiche dei nostri ragazzi che ci dovrebbero orientare a evitare alcuni sport? Evitare, dico, oppure poi parliamo anche di quelli a cui dare la precedenza? Sì, questo è un discorso molto importante. Dobbiamo in sede di scelta valutare se ci sono caratteristiche fisiche che controindicano in modo preciso la pratica di uno sport, soprattutto se fatta in modo continuativo. E direi innanzitutto ci sono quelle che sono le più conosciute, quindi le problematiche cardiovascolari, cardiorespiratorie o dismetaboliche, che sono vere e proprie patologie. Allora a questo punto è chiaro che la pratica sportiva può diventare un rischio e va gestita con prudenza, ma su questo di solito siamo sensibili. Poi ci sono problematiche di tipo, se vogliamo, ortopedico e alle quali accennava il professor Memeo, e io penso al piede piatto, spessissimo associato al ginocchio valgo piuttosto che al ginocchio varo, più spesso al ginocchio valgo, e guarda caso molto spesso associato a sovrappeso ed obesità. Questa è una trilogia che io riscontro veramente spessissimo. La triplice. Oppure problematiche importanti a livello di colonna, perché tutti noi abbiamo una lordosi fisiologica, una cifosi a livello cervicale fisiologica. Quando queste problematiche sono molto accentuate, queste curve sono molto pronunciate, è chiaro che degli sport con sovraccarichi importanti a livello della colonna e del tronco vanno fatti con estrema prudenza. Un'ultima cosa che mi sento di segnalare, perché la riscontro sempre più di frequente: siamo abituati a parlare di sovrappeso e obesità, è chiaro che queste sono situazioni prevalenti, Però sempre più spesso vedo bambini inappetenti che mangiano poco e fanno sport magari in modo continuativo, quindi hanno una magrezza patologica, un ridotto sviluppo muscolare, una gracilità di cui dobbiamo tenere conto. Posso interromperla? Perché abbiamo il messaggio di Sonia che descrive una situazione molto simile a quella che, di cui lei ci parlava. Il mio bimbo di 9 anni fa nuoto agonistico e ci scrive 10-12 ore alla settimana. Fa bene o fa male? Non so, visto le facce di che cosa, perché, però parlate, perché fate fa bene dottor Nemea, magari... lei è d'accordo? Sì, nuoto sì, assolutamente, va bene, sì. A lui piace molto e si diverte, non mangia moltissimo, è magrolino, che fare? Fa tanto nuoto, non mangia molto, è magro. Occhio. È un po' la situazione che si diceva prima, attenzione, perché sempre più bambini mangiano troppo poco, anche perché mangiano da soli almeno due pasti al giorno, la colazione e il pranzo, quindi nessuno li controlla. La sera il genitore è stanco e non combatte col bambino. Quindi i bambini inappetenti non sono più inseguiti dalle mamme, ma sono lasciati un po', ecco, perché si dice intanto in questa società del benessere nessuno patisce la fame, però attenzione. Siamo tornati, spazio alle vostre domande, alle vostre telefonate. Abbiamo Antonio che ci chiama da Vicenza. Buongiorno Antonio. Buongiorno dottoressa, a lei e ai suoi ospiti. La mia domanda è questa: io ho un bambino di 9 anni che pratica calcio da 3 anni. Sì. E di tanto in tanto lui accusa sempre una fitta, quasi un dolore, nel fianco destro. Quando corre, diciamo così. Cosa potrebbe essere? Ecco Antonio, mi sembra che questa è una domanda che richiede dei dettagli. Lei ha detto di tanto in tanto, quindi vuol dire sempre ha localizzato il dolore, ma quanto è intenso? Il dolore si manifesta quando il ragazzino fa sport, subito dopo? No, durante gli allenamenti, durante la partitella, così. Cioè io lo vedo che lui tende a mettere una mano sul fianco, no? Come a dire, mi fa male, no? Diciamo. Allora, dottor Memeo, grazie Antonio. Abbiamo raccolto le informazioni necessarie per dare qualche indicazione. Sì, sono tanti gli aspetti da valutare in questo caso. Può avere quella che spesso tutti i medici sportivi etichettano come pubalgia, ma anche qua la pubalgia va indagata con degli esami ecografici o strumentali. Potrebbe avere anche a 9 anni una sofferenza della testa del femore, perché esistono delle malattie che hanno dei prodromi molto lunghi, tipo le sofferenze ischemiche della testa femorale, o in qualche caso, soprattutto in soggetti con una costituzione robusta, ci può addirittura essere un'iniziale sofferenza della cartilagine di accrescimento e uno scivolamento della testa femorale. Quando inizierebbe a fare delle indagini? Il nostro amico dice le viene una volta ogni tanto, quando durante gli allenamenti. Qualche mese che ha dei disturbi va indagato, anche perché possono esserci anche altri aspetti non ossei. Dottor Confalonieri, ad esempio? Sì, ad esempio potrebbe esserci una sofferenza appendicolare, un'appendicite non particolarmente sviluppata ancora, legata alla posizione, quindi all'interessamento di quest'organo, che giustifica il dolore. Quindi è un classico caso che merita una diagnosi differenziale accurata. Isidoro ci chiama da Padova, 824 0024. Evidentemente sarà un papà di un ragazzo che fa sport, ma di che età? Sì, buongiorno, complimenti scontati. Sono un papà di due ragazzi, un ragazzo e una ragazza. Io chiamavo specialmente per il maschio, no? Sì. Permetto, tutti e due facevano nuoto prima. Adesso la ragazza, vabbè, con le amiche è andata a fare pallavolo, non riesce tanto, ma le piace, per cui... mi piace quel non riesce tanto. No, l'importante è che si divertano, sì. No? Poi migliorerà. Il bambino cosa fa? Lui vorrebbe fare, lui farebbe uno sport con la forchetta, ma non ce n'è, cioè un mangione. In poche parole, 1,42 per 42 kg e fa calcio, però cosa ha scelto di fare? Il portiere. Per cui anche io ma e mia moglie ci siamo guardati, Isidoro. Diciamo, Isidoro, sì. Ma scusi, ma a me sembra di vedere una cosa di questo tipo. Tutti i ragazzi un po' morbidi, un po' cicciottelli vengono sbattuti in porta. Perché? Oggi trovo un sacco di persone con le quali sento un'empatia naturale, anche perché il figlio di Isidoro, un po' in sovrappeso, lo mettono in porta, mi è naturalmente simpatico, sì. Gli farà bene stare tutto sempre in porta? Beh, innanzitutto in tutte le scuole calcio e in tutte le squadre di calcio minimamente organizzati il portiere comunque fa attività, non è che sta fisso in porta per 2 ore, quindi fa tutta la preparazione atletica con gli altri, spesso esce, quindi tutto sommato va bene, un minimo di attività questo ragazzo la fa. E si potrebbe, visto che abbiamo parlato spesso di abbinare situazioni diverse, magari cercare un'altra attività che non sia di squadra, che sia individuale e che lui possa fare divertendosi per integrare il calcio in oltre, questo caso. Oltre allo sport della forchetta, ma soprattutto se non, magari non ha proprio i piedini piatti. Beh sì, per stare in porta serve l'elevazione, quindi può anche saltare meglio se non hai i piedi piatti, però anche perché poi adesso in porta giocano anche coi piedi, quindi corrono e fanno come esatto. diceva giustamente Confalonieri, con le nuove regole del calcio anche i portieri devono correre. Come siete aggiornati? Giovanni dalla provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno a lei e complimenti per la trasmissione. Il mio ragazzo ha 15 anni e da 4 anni pratica il rugby. Sì. Il problema è che in precedenza, essendo tutti dei bambinetti, naturalmente il problema non sussisteva nei confronti, negli impatti. Attualmente dai 15 ai 17 anni naturalmente sono uomini, la cosa quasi. Cambia un pochettino. Certo. Vorrei sapere ai problemi che vado incontro e naturalmente... A quelli cosa... che va incontro lui soprattutto, soprattutto perché lui, gioca esattamente, lui. Soprattutto lui perché naturalmente con i ragazzi di 15-16 anni... Sì, poi sono grossi, di solito. Gracilini che giocano a rugby se ne vedono pochi. Sì. Allora, 15 anni la struttura ossea è praticamente formata, quindi è quasi un fisico da adulto, le cartilagini di accrescimento delle ossa lunghe ormai sono saldate, quindi al limite ci può essere qualche problema per la spalla, ma la spalla nel rugby è un problema in tutte le età, e per la colonna, ma per il resto 15 anni la struttura corporea è formata. C'è da dire che in Italia giocano a rugby senza contatto fino ai 14 anni, mi pare, mentre se va a giocare a rugby in Inghilterra a 8-9 anni giocano già a rugby col contatto vero e proprio. E quindi... Meglio tenerli in Italia. E poi non vinciamo. Adesso andiamo a Livorno, ci aspetta Thais, non so se ho letto bene questo nome, Thais, non lo so, buongiorno. Thais. Buongiorno. Buongiorno, a lei la domanda. Le mie domande sono veramente due. Ho una bimba di 6 anni che sta appena iniziando a frequentare corso di ginnastica ritmica. Sì. Lei inizialmente era attratta dalla danza, però ho cercato di proporle qualcosa di diverso. Sì. Vorrei sapere se eventualmente lei vorrà iniziare danza più tardi, quale sarebbe l'età massima per cui iniziare a fare danza? Sì. E l'altra domanda è che si è dimostrata anche particolarmente interessata a fare il pattinaggio, ma più per imparare i pattini, sì. Ho visto che si impegna. Col mio marito, insomma, un po' di. Allora, questo è un po' il dubbio di Thais. Dottor Confalonieri, se lei è rapido, riusciamo anche ad andare a Raul. Ma 6 anni sarebbe l'età giusta per iniziare la danza, non conviene aspettare più di tanto. Quindi, tra la danza e la ginnastica ci sono molte correlazioni, perché non fargli fare la danza invece della ginnastica, dedicando magari il weekend al pattinaggio e può divertirsi con la famiglia e fa un po' di multilateralità. Raul, buongiorno. Buongiorno. Guardi che sto buongiorno. Rischiando per lei, perché ho un minuto per chiudere. Benissimo, faccio in fretta. Io ho una bambina di 13 anni che gioca a pallavolo da quando ne ha 8. Sì. Negli ultimi 2 anni ha fatto 2 lustrazioni di rotula, questi negli ultimi 2 anni. E quindi la mia domanda era questa, 2 alla sinistra e 1 alla destra. Sì. Volevo sapere, innanzitutto, se la pallavolo aveva controindicazioni per questo tipo di problema. E seconda cosa, mi stanno suggerendo ortopedici diversi, o alcuni l'intervento, o alcuni invece di rafforzare in maniera molto particolare la muscolatura. Abbiamo capito, Raul, passo subito la parola al dottor Memeo, 10 secondi. Velocissimo, la pallavolo per i problemi di rotula è abbastanza controindicato come tipo di sport, sia per i traumi sia per le sollecitazioni. Secondariamente, per quello che riguarda l'intervento, dipende se è una lussazione vera e propria di rotula, quindi un'instabilità rotulea, o se è solamente un disallineamento rotuleo. Per il disallineamento basta fare la ginnastica di rinforzo dei muscoli antagonisti e per l'intervento invece è consigliato se si tratta di una lussazione franca. Chiudiamo, ringrazio i nostri ospiti, grazie dottor Memeo e dottor Confalonieri, appuntamento a domani per Questa casa non è un albergo, lunedì con la salute, buona giornata da Nicoletta Carbone.